Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. Siamo già al quarto volume di quelli che alla fine di questa settimana, grazie al podcasting, potrete riporre sul vostro scaffale digitale per andarli a prendere nel momento che preferite e ascoltarveli col supporto che preferite. Anche in questo volume ci saranno canzoni già conosciute e canzoni invece nuove, ci saranno sprazzi cinematografici e ci saranno, come sempre, dall'inizio, incipit letterari. Si risvegliò di colpo, sudatizzo, col fiato grosso, per qualche secondo non capì in dove si trovava. Dopo fu il respiro leggero e regolare di Livia, addrumisciuta al lato a lui a riportarlo alle dimensioni acconosciute e rassicuranti. Era nella sua camera di letto a Marinella. A tirarlo fuori dal sonno era stata una fitta gelida come una lama alla ferita della spalla mancina. Non ebbe bisogno di tagliare il orologio sul comodino per sapere che erano le 3:30 di notte, per la precisione le 3:27:40. Questo era l'incipit della Pazienza del Ragno di Andrea Camilleri. Let the walls What are you gonna do? Nice college boy, huh? They want to get mixed up in the family business? Huh? Now you want to gun down a police captain? Why, because he slapped you in the face a little bit? Huh? What do you think, this is the army where you shoot him a mile away? You got to get him close like this, and bada-bing, you blow their brains all over your nice Ivy League suit. Come here. Mwah! You're taking this very personal. Eclettica è sì fatta di sprazzi cinematografici, di estratti dai libri, di canzoni, ma è anche fatta di etichette musicali. Infatti ce ne sono alcune che sono più presenti di altre, perché sono più affini rispetto alle scelte artistiche, alle scelte di atmosfera che aiutano a costruire Eclettica. Una di queste è l'etichetta Secretly Canadian, che non è canadese nonostante il nome, ma è dell'Indiana, che è arrivata al numero di catalogo 100 e per festeggiare questo traguardo ha pubblicato, proprio col numero di catalogo 100, una raccolta che vede artisti che hanno inciso dischi del precedente catalogo dall'1 al 99 nel rifare cover di altri artisti sempre dello stesso catalogo, quindi una cosa tutta in casa per questo SC100, questa raccolta alla quale noi ci siamo ascoltati Dave Fischoff, artista di Chicago, Illinois, a rifare un brano di Damien Jurado dal titolo Abilene. In precedenza invece era stata la volta dei Big Sur, ma già ve ne avevo parlato la volta scorsa, quindi non vado a spendere ulteriori parole su di loro. Come già la settimana scorsa ci eravamo ascoltati anche i Forget Cassettes, che stanno per arrivare qua su Rock FM. Thank you. Venne risvegliato a notti fonna da un gran catugno di vociate e di chianti che veniva dalla camera di mangiare. Ma era cosa stramma assà, perché tanto le vociate quanto i chianti erano assufficati, quasi che chi stava facendo catugno non volisse fare sentire il catugno che stava facendo. Michilino, che era un picciliddro vicino a 6 anni ma esperto, di subito, dal lettino dove stava corcato, tagliò nel letto granni, in dove dormivano suo padre e sua madre. Non c'erano, si erano sussuti e quindi dovevano essere loro a catoniare. Infatti, appizzate le grecchie, sentì distintamente che a fare vociate che non si capivano e a chiangiri era mamma, mentre invece un papà ogni tanto interveniva a mezza voce: «Basta, Ernestì! Basta che stai risbigliando un paese! Accura, Ernestì, che se me incazzo io, finisce schifio!» Questo era l'incipit della Presa di Macallè di Andrea Camilleri. Thank you. arm, can you get me off the hook? For old time's sake. Can't do it, Sally. I don't wanna play with you, and then I'll do my best to run away. I don't wanna stay with you before I lose the faith in my good taste. But I don't mind, yes I'm trying to ignore it. It's so kind, your disability to play football. Yes, I'll do my best to run away. I don't wanna spend my time with the vets. Oh, I don't wanna spend my time with the vets. And the budgies, I don't want the vets. I'll go to bed in Eton-or. Now I wanna spend my time with the vets. Now I wanna spend my time with the vets and the budgies. Love spot. Did not shine, did not shine.